faccio ad avere il tuo bene? Faccio una casa di pietre preziose, intorno un giardino di viole e di rose. Di viole e di rose, intorno un giardino di viole e di rose. Una fontana d'ambrosia divina, per dissetare una bella regina. Mentre la luna vola sul mondo, tu stai dormendo di un sonno profondo. Una civetta in silenzio si posa su un ramo. Si posa su un ramo, una civetta si posa su un ramo. Gira la testa e comincia a cantare la tua bellezza e i miei sogni d'amore. Ma come faccio ad avere i tuoi baci? Faccio un giaciglio con l'oro e l'argento, lenzuola di seta cucite dal vento. Cucite dal vento, lenzuola di seta cucite dal vento. È una coperta che possa scaldare i tuoi pensieri, la mia fantasia. Mentre la luna vola sul mondo, tu stai dormendo di un sonno profondo. Una civetta in silenzio si posa su un ramo. Si posa su un ramo, una civetta si posa su un ramo. Gira la testa e comincia a cantare la tua bellezza e i miei sogni d'amore. La tua voce ha sapore di miele come un canto di sirena. La vestaglia colore di foglia che ti veste nella festa. Il tuo cedere ti capta sulla strada verso il mare. Le tue labbra di ciliegia mi hanno fatto innamorare.